Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Antonio Auricchio, il formaggio che unisce l'Italia. Di Maria Chiara Grandis. Io non prendo un caffè la mattina e non mangio brioche, non mangio marmellate, però dopo vado in stabilimento e mangio delle belle pezze di formaggio, qualsiasi tipo di formaggio, proprio lo amo in modo sconsiderato. Da 5 generazioni la famiglia Auricchio produce formaggio, in particolare il provolone, che dal 1862 ha fatto conoscere l'azienda in tutta Italia e all'estero. Una storia che inizia a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano, grazie all'intraprendenza di Don Gennaro. La racconta Antonio Auricchio, attuale presidente della società di famiglia. Il nonno di mio papà era un tarallaro, cioè un ambulante in sostanza, perché giù nella zona di Napoli si usano moltissimo i taralli, e vendeva, oltre che i taralli, il salame, quello col peperoncino, vendeva lo stoccafisso, vendeva altri prodotti e anche i formaggi. E decise un giorno, dice, perché devo vendere i formaggi? E li devo costruire, li devo produrre, li devo fare. E così, e queste sono le genialità di alcune famiglie, inventò questo che ci contraddistingue ancora adesso, che è il caglio, diciamo che è l'elemento principale per fare un formaggio. Tutto il provolone, come altri grandi formaggi italiani, è un prodotto di OP, è un prodotto che va fatto in determinate maniere seguendo un disciplinare. Inventò il caglio nostro, che è ancora adesso una ricetta conservata in banca e che è la nostra, diciamo, cavallo di battaglia. Negli anni l'azienda cresce fino a quando, nel 1949, la sede principale viene trasferita dalla provincia di Napoli in Lombardia. E quale fu il problema? Che non trovò il latte a sufficienza, e allora decise il figlio Antonio, che era mio nonno, di andare al nord per cercare i pascoli più importanti. Qual era il pascolo per eccellenza? La pianura padana. Dovete decidere se stare a Mantova, Cremona o Brescia, e poi, io non so il motivo, decise di stare a Cremona, e da lì diciamo che la parte importante dell'azienda è a Cremona, e c'è anche, come ovviamente la tradizione vuole, da San Giuseppe Vesuviano ci siamo spostati a Somma Vesuviano, dove abbiamo un bello stabilimento con tutti i nostri dipendenti, che devo dire con grande soddisfazione che ci amano, e quindi è una cosa molto positiva, specialmente in questi anni un po' così difficili. Nato a Parma nel 1953, Antonio Auricchio non dimentica le origini napoletane. Quando all'estero mi dicono: ma da che parte dell'Italia sei? Io dico: sono italiano, perché ho una parte di me che è napoletana, una parte che è parmigiana, una parte che è cremonese, perché vivendo a Cremona, avendo lo stabilimento a Cremona, avendo studiato, ho fatto le scuole elementari e il liceo a Cremona, e una parte che è sarda adesso, perché si riesce a produrre là in Sardegna. Quindi dico che è molto importante, ha significato soltanto far capire che i confini non esistono, perché allora nel 1800 venire dal sud al nord era come forse andare negli Stati Uniti da adesso, perché era un viaggio molto importante, c'erano realtà molto diverse, addirittura credo che incominciava l'unità d'Italia, quindi è stato importante. Quindi io dico che non metto mai limiti a dove essere. A papà Gennaro, che rileva le quote del fratello, si deve la riunificazione dell'azienda. Da 3 anni Antonio Auricchio la guida insieme ai suoi fratelli, Gian Domenico e Alberto. E quindi lui godeva nel pensiero di essere riuscito, dopo tanti anni, a ritenere l'azienda sotto un'unica guida, che era la sua. Nonostante avesse 93 anni, era un personaggio molto molto forte. Mi ricordo che, ed è una cosa un po' triste, io che ero legatissimo peraltro a mio padre, che poche ore, 2 ore o 3 prima che andasse dal suo collega, diceva che lui andava a trovare San Gennaro, perché si chiamava Gennaro, quindi erano amici. Ormai era un pochettino intontito, ma era la vecchiaia, mi disse: dove vai? E io gli dissi: vado in stabilimento a vedere questa nuova macchina. Pensi che avremmo dovuto fare, nel giorno in cui è morto, la festa dei 130 anni con tutti gli invitati, e invece di fare questa festa abbiamo fatto il funerale di papà. E devo dire che abbiamo avuto un sacco di persone, anche inaspettate, perché vuol dire che uno aveva seminato bene. Quindi sono molto contento, e sono certo che noi 3 fratelli continueremo in questo solco che papà ha dato, in questo campo arato, perché bisogna continuare ad andare avanti. Antonio Auricchio entra in azienda a 23 anni. anche se il suo sogno era un altro. Volevo fare il medico, proprio il medico, e mio padre mi disse: fai benissimo, era anche la mia passione. E poi eravamo a tavola una sera a cena alle 8, perché lui era ligio all'orario. Poi verso alla fine, mentre prendeva il caffè, perché diceva che il caffè lui lo faceva addormentare, mi disse: ma peccato, perché sei il mio primo figlio. Allora no, l'abbandonai la medicina e mi laureai in legge, per poi dopo seguire lezioni di microbiologia, la teoria casearia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, quella di Piacenza, che mi diede delle basi, diciamo, scientifiche su quello che dovevo fare, perché mi volevo occupare di produzione e di acquisti, perché il latte per me è sacro. Quindi io sono del 53, a 23 anni ho incominciato a lavorare e dovevo ancora dare la tesi che poi diedi nel 77, e poi ho scoperto molti anni dopo che per i primi 4 mesi mi pagò lui, non mi pagò l'azienda, perché diceva che potevo essere un danno per l'azienda. Mentre i fratelli Giandomenico e Alberto si occupano di finanza, marketing e vendite, Antonio pensa alla produzione e agli acquisti. Auricchio oggi conta 5 stabilimenti sparsi per l'Italia: Lombardia, Emilia, Campania, Sardegna. Solo nella sede di Cremona ogni giorno vengono lavorati 5.000 quintali di latte. Non mi piace dirlo, però mi vanto di avere costruito una tabella qualità del prezzo del latte specifica che solo Auricchio ha, nel senso che è una tabella fatta su misura. La mamma mi ha fatto grosso, anche quando vado in sartoria non trovo le robe già fatte, devo farle, perché sono... Io ho detto: bisogna fare il latte su misura, perché il mio tipo di produzione è diverso da quello del latte alimentare, da quello del grana padano, da quello del gorgonzola. E allora ho cercato di fare una tabella qualità che premia molto di più il produttore latte, che in genere sono amici, in base a dei parametri che ovviamente sono raggiungibili e che però a me come imprenditore permettono di avere un latte ad hoc sul mio tipo di formaggio. Ovviamente per i prodotti DOP deve essere latte italiano e addirittura nel provolone di aree specifiche. Quindi la nostra raccolta è ovviamente Cremona, Brescia, qualcosina Mantova e Piacenza e Lodi. E contemporaneamente lavoriamo circa 1.000 quintali di latte al giorno, forse di più quest'anno, in Sardegna, di latte di pecora, che però è molto più latte nel periodo invernale, per poi le pecore non mungerle quasi più durante il periodo estivo. Anno dopo anno, Antonio Auricchio ha scoperto l'importanza di visitare le stalle, di tenere un contatto con i produttori. Ecco perché oggi conosce bene le difficoltà che il settore si trova ad affrontare. Sicuramente c'è stato negli ultimi 2 anni un momento di crisi molto dura. Era stato, per questione di mercato, un deprezzamento del prezzo del latte, con questa volatilità del mercato che delle materie prime si vede anche nel petrolio, che grazie a Dio conta relativamente nel prezzo del latte, anche se non è vero, perché oggi il trasportatore latte ti chiede sempre più soldi quando aumenta il petrolio, e gli stessi allevatori, perché i trattori non vanno col latte, vanno, ahimè, con il gasolio. Ma direi che io sostengo che le punte sono sempre sbagliate. Un prezzo troppo basso uccide, tra virgolette, l'allevatore, un prezzo troppo alto uccide l'industria. Bisognerebbe fare un qualche cosa che sia soddisfacente per tutti e due, perché ovviamente io senza latte non farei l'industriale caseario, e probabilmente l'agricoltore senza un industriale caseario non riuscirebbe a sistemare il proprio latte. Provolone, piccante e dolce, ma anche formaggi freschi, caciotte, parmigiano. Oggi Auricchio, che conta più di 350 dipendenti, fattura circa 135 milioni di euro all'anno. Fra gli obiettivi futuri c'è quello di esplorare i mercati emergenti, come l'India e la Cina, mentre già dai primi del Novecento il provolone si è affermato negli Stati Uniti, a partire dall'Italy Italy a New York. Il segreto del successo? La produzione artigianale e un testimonial d'eccezione, nato per caso. Usare le mani per fare il prodotto da quello più piccolo a quello più grosso è una meraviglia. Io che amo la fotografia, vado ogni tanto con la macchina fotografica a vedere queste mani che modellano la pasta. Addirittura tanti anni fa avevamo un casaro bravissimo, che era uno scultore, che però lavorava per guadagnare, poi le sculture le vendeva agli amici, e che con la pasta del formaggio, per fare il formaggio deve essere bollente l'acqua per modellare, no? E lui con le mani faceva, non so, la mucca con la donna che mungeva, e l'agricoltore con tutte queste cose. E un giorno fece, e fu una nostra nostra fortuna, sopra uno dei nostri provoloni fece il viso di Eisenhower, che poi una nostra amica pittrice lo dipinse e noi lo regalammo ad Eisenhower, il quale lo mise per televisione e fortuitamente, ma per fortuna per noi, abbiamo avuto una bella pubblicità negli Stati Uniti su quello, perché negli Stati Uniti molti italiani vogliono i nostri prodotti. I viaggi, la fotografia, il volontariato in Italia e nelle missioni dei paesi in via di sviluppo sono le passioni di Antonio Auricchio. Ecco la sua ricetta per conciliare lavoro e vita privata. Non vado in montagna, non vado al mare, mi piace lavorare il sabato e la domenica durante certi giorni, durante tutto l'anno, però in certi momenti devo scappare. Mi ricordo che ho avuto la fortuna di conoscere questo signore che era il miglior amico di mio padre e che era un magnate e che mi portò da bambino, perché i miei si fidavano di lui, a girare il mondo. Ma certo tipo di mondo. Allora ho preso una jeep e da quello ho cominciato a fare tanti viaggi in Africa, e sopra il volante avevo scritto una frase di Dante con scritto: fatte non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. E io mi misi a fare questi viaggi in Africa e pian piano ho avuto la fortuna di vedere le cose positive, perché anche l'Africa diventerà, dal punto di vista economico, nel futuro, ahimè ormai schiavizzata dalla Cina, ma diventerà un polo importantissimo perché ha le materie prime. E devo dire che il viaggiare mi ha aperto molto la mia mentalità. E devo dire che spesso quando uno è... Mi ricordo un anno nel deserto del Sahara, avevo fotografato le dune, particolari di dune al tramonto, erano molto interessanti perché c'era una luce straordinaria col vento, e prima di partire avevo un problema molto grosso su un discorso produttivo, e lì mentre pensavo che tipo di taglio fare alla fotografia, che peraltro facevo in bianco e nero sulle dune, mi è venuta un'idea che non c'entrava niente, e ho pensato a un tipo di produzione, di lavorazione diversa, e devo dire che, perché ero assolutamente talmente estasiato che il mio cervello però intanto pensa a queste cose. L'importante è pensare al tuo lavoro e pensare a quello che fai. I giovani di casa Auricchio sono tanti. Il figlio di Antonio ha 17 anni e poi ci sono i nipoti. A chi passerà allora il testimone? Chi guiderà l'azienda in futuro? Abbiamo voluto, dopo la scuola, che venissero per circa un mese a lavorare vestiti da casaro semplice e imparare cosa vuol dire. E devo dire che hanno risposto, ma questo non implica che diventeranno nel nostro settore. E quindi io da mio figlio ho avuto questa grande soddisfazione, anche perché mio figlio è molto diverso da me, molto più introverso, però lui, senza che io gli facessi pressione, ha deciso di andare un anno negli Stati Uniti e per imparare la lingua e per crescere, e io assolutamente l'ho accettato molto volentieri, perché secondo me il mondo va visto per il discorso della mentalità. E quindi noi gli abbiamo seminato l'idea che la loro vita potrebbe essere quella negli stabilimenti e nell'Auricchio. Però sono loro che devono scegliere. Di padre in figlio, Auricchio produce formaggio dal 1862. Una storia che attraversa e rispecchia quella dell'Italia e di tanti italiani, dall'artigianato all'industria, dal sud al nord. E che Auricchio fosse una storia italiana lo scriveva già Giovanni Ansaldo sul Borghese nel 1950. Il vero segreto del provolone Auricchio è nella mentalità, nel costume antico, adattato ai tempi, ma serenamente difeso. Devo dire che papà, nella sua durezza, apparente però, ci ha proprio sempre inculcato l'idea che uno, se lavora nella propria azienda, deve credere. E così dirò a mio figlio: se non sei innamorato della tua azienda, ci hai messo 150 anni per fare un grande marchio, puoi metterci 150 ore a distruggerlo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.